Ma non vedete qualcosa di strano nelle strade d'oggi? Ma non vedete qualcosa di strano nelle strade d'oggi? Non siamo mai stati così soli, andate a mettere la testa fuori. Sentiamo cani abbandonati nelle strade d'oggi. Strano nelle strade d'oggi. Ma non vedete qualcosa di strano nelle strade d'oggi? Non siamo mai stati così soli, andate a mettere la testa fuori. Sentiamo cani abbandonati nelle strade d'oggi. Cani abbandonati nelle strade d'oggi. Il motivo della tua indifferenza è il sogno per un mondo che non c'è. Vedete qualcosa di strano nelle strade d'oggi?